Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Cara Monica, bello fare i comunisti con i soldi in banca, è proprio bello, eh? Basta piagnistei, porco cane, lavorerei un poco. Sei un grande Milan, altro che balle, vai avanti, grandissimo. Caro Milan, quest'anno l'Europa League la vince la Juventus. Avvero, che te serve? Ma che te serve a te, avvero? Sei bella, sei giovane, sei intelligente. Avvero, ma che te serve? Siamo qui, buongiorno cari ascoltatori, c'è anche uno che chiama la nostra Veronica Gentili Monica, però va bene. Questa tutto. La perdoneremo soltanto grazie sì. all'ascoltatore dopo che dice ma che me serve? Allora, sì, esatto. Sono le sigle che dovete mandare di Averò che te serve, stiamo ci preparando sono arrivate una un grande po' di rubrica. Siglette? Rolling Stone hanno mandato nulla? Lorenzo Rolling Stone no, i Rolling Stone non ancora adesso strano, sono arrivate mi ha detto Mick che qualcosa mandava dagli U2 dagli U2 okay. Ci ha chiamato ma io di Bono Diege. Ce ne ho già uno qui ai funamboli sì. Manera? Che non è ancora arrivato? No, arriva più tardi. Chiaramente parlavo di Manera, è ovvio. Allora, come... sono le 9 minuti, siamo qui irriducibilmente qui. Ricordate che se volete mandare gli audio potete farlo, qualora io vi dia il numero potete farlo. Sì. Potete mandarli al 349-238-6666. Ottimo, potete anche chiamarci all'800-24-0024. Senti qua, cara Veronica, è stato un weekend, siamo in piena campagna elettorale. Una di quelle cose che mi farebbe prendere il primo biglietto per Vanuatu, ma non posso. E stare lì tipo 6 mesi, ma non posso. Io mi diverto pazzamente. Sì, invece. Sì, sentilo qua come ti diverti, guarda, sentilo. Io mi sento 40 anni e mi comporto da quarantenne. Fate altrettanto anche voi. L'altro giorno ho invitato a pranzo i miei compagni di liceo. Uno è arrivato sostenuto da un figlio, un altro col bastone. Si sono seduto e gli ho detto: ma io avevo invitato i miei compagni di scuola, loro, non i loro genitori. Eccolo qua, il giovinetto Berlusconi. Io lo so che tu ieri sera non l'hai guardato. Abbi coraggio di dirmelo. No, non l'ho guardato. Io tutto me lo sono ciucciato dal primo momento fino all'ultimo. Me lo sono dimenticato, ho visto la coda che parlava dello Ius Soli e... L'ultimo pezzetto sullo Ius Soli, momento di palese gelo. Perché l'unica domanda che Fazio gli ha posto, proprio l'unica per dare un riscatto al silenzio dei precedenti 30 minuti, è stata: ma lo Ius Soli? E lui doveva dire perché era contrario allo Ius Soli. Peccato che non lo sapeva, voleva guardare sui foglietti. Non lo sapeva, non era per perorare la causa dello Ius Soli, era proprio che lui non lo sapeva. Era diverso. Ma dai, cioè, non ne aveva adesso. Idea, ha detto "Bah, eccola infatti, qua. Esce Veronica Gentili". Il momento clou è stato quando ha detto perché gli islamici poi hanno questa cultura del tenere le donne un po' coperte e velate quello e lì abbiamo sentito. Capito perché lui non apprezzi la cultura islamica, no? Però l'abbiamo sentito. Quello ho beccato la coda. Ma io quando ci sono le interviste a Berlusconi non mi concentro tanto su quello che dice, ma lo guardo, ne guardo proprio, cioè guardo il trucco, guardo... Beh, esteticamente occupava, devo dire, la scena parecchio, perché già soltanto a fare proprio minuziosamente, a vivisezionare tutta l'estetica, ci perdi tempo. Comunque, il giovincello Berlusconi, c'è una cosa invece che... da un paio di giorni mi infastidisce un po'. Cosa? No, sta cosa delle fake news. Le fake news. Senti Renzi alla Leopolda. Ho visto Salvini che ha detto che vuol fare un patto dal notaio con Berlusconi. Già che c'è, prenda l'impegno di dichiarare come i movimenti che sostengono Noi con Salvini e l'Unofficial sui social hanno relazioni con i 5 Stelle. Perché questo giochino non è un giochino che passa più inosservato. Vi abbiamo sgamato, amici dell'opposizione. Queste Renzi, allora si parla di una legge contro le fake news. Allora, io che sono fanatico di alcune fiction tipo Homeland, tu l'hai mai vista Homeland? Sì, ecco, certo. Per esempio, no, Homeland si racconta anche molto spesso come si possa orientare l'opinione pubblica, certo, con le notizie messe in rete e non ed è, ma così, anche non è come che... si possa guidare le persone da un sito all'altro, sì, certo, affinché si muovano facendo un percorso. Ma no, ma questo di fatto c'è, l'orientamento dell'opinione pubblica l'abbiamo visto con Bush figlio e la guerra in Iraq sulle finte armi sì, di distruzione di massa. Però io mi sono posto una domanda molto semplice: ma se abbiamo gente credulona che vede una news di la Boschi e la Boldrini al funerale di Rina, una cosa totalmente falsa, e la gente crede a questo perché non legge un giornale, non legge un libro, non si informa, va su Twitter e guarda la Boschi, però, così, ed è cretina così, il problema è farne una legge o il problema è il popolo bue? Ecco, Ale, però questo, il problema è che mano a mano che cambia il mondo e cambiano le tecnologie, per cui cambia il modo di diffondere le notizie, l'analfabetismo funzionale cosiddetto rischia di diventare veramente una sorta di mina vagante, perché poi la mina gente... Mina vagante perché quello è il problema. Perché la gente che è sempre stata così, non è che le persone siano cambiate, la differenza è che adesso l'informazione è prêt-à-porter e c'è oltretutto la supponenza di credere che tutto ciò che si sa, no, lo si assume come e se fosse cosa la, facciamo? Il ministero del l'informazione corretta? No, io credo che sia una materia molto nuova e che sia ancora da disciplinare, per cui probabilmente si troveranno gradualmente dei sistemi. Quello che preoccupa me è che mi sembra essere materia unicamente da campagna elettorale e come un po' Renzi disse ai tempi, no, facciamo le banche, devono essere i loro vaccini, stesso discorso, temo che adesso le fake news diventeranno il tormentone. Ma è chiaro, diventeranno il tormentone. Ma io dico, ripeto, se una crede a delle palesi idiozie che circolano in rete, il problema non è sono le idiozie, il problema è la gente che ci crede. Comunque, insomma, se volete chiamarci 800 24 00 24. Se ci vogliono dire anche che effetto gli ha fatto rivedere Berlusconi, bello pronto, pimpante e sorridente. Tu sei colpita da questa cosa. No, dai, è stato molto forte. Io capisco che tu sei comparso all'ultimo, che ci ha raccontato tutti i suoi simpatici aneddoti, che ci ha detto che ha fatto la guerra, probabilmente parlava di quella punica, e poi non ha specificato nel dettaglio. Insomma, se volessero dirci la loro opinione su questo e anche se gli fa più paura Berlusconi o Di Maio, io pendo dalle loro labbra per sapere cosa pensano. Bene, dai, chiamateci, noi abbiamo i primi funamboli che ci attendono per iniziare questa puntata. Perché poi c'è la campagna elettorale, i quarantenni, gli ottantenni che sentono quarantenni, le fake news, il generale Gallitelli proposto da Berlusconi. Hai che sentito, non lo conosce nessuno ovviamente, però non è la prima volta peraltro che tutti lancia queste idee. Tutti si sono interrogati su dove fosse nel frattempo il generale Gallitelli, dove l'abbia sorpreso questa notizia. Io vorrei spiazzare il nostro primo ospite e chiedergli che cosa pensa di tutte queste cose. Il nostro ospite che l'abbiamo chiamato per un'altra questione, cioè per la sua storia, il signor Saverio Monorchio, che salutiamo. Buongiorno signor Saverio, eccoci qua. Buongiorno. Lei che ne pensa? Poi ci spiega tutto adesso. Che ne pensa dal suo punto di vista, che è da imprenditore di un'azienda di Imperia, di tutte queste discussioni? Queste cose della politica, sì. Guardi, meglio che non dica cosa ne pensa. Ecco, va bene, la sua risposta. Non ci accontentiamo di questo. Non ci vuole dire nulla. Le è piaciuto Berlusconi questo grande ritorno? Guardi, non l'ho guardato. Devo essere sincero, non ho neanche voluto vedere perché. Siamo in due, non si preoccupi. Esatto, ritorniamo di nuovo alle storie di 25 anni fa. Va bene, le cose vanno avanti. Ecco. In realtà, noi l'abbiamo chiamata perché lei, insieme a suo fratello, titolare di questa azienda, Neon Riviera, in provincia di Imperia, Imperia, che si occupa di impianti di illuminazione, è successo che c'è stata un'irregolarità riscontrata nel pagamento dei contributi. Grave, cosa grave. È vero. Gravissimo. Questa irregolarità ammontava a quanto? A che cifra? Ma, guardi, adesso si tratta di parlare di cifre astronomiche. Un centesimo. Un centesimo? Cosa, scusi? Un centesimo. Un cent. Un cent. Un vecchio cent. Si ricorda... Topolino, sì, sì, un centesimo. Il Paperone è partito da lì. E come avete, cioè, esatto. Infatti, non svalutiamo un centesimo, che Paperone dei Paperoni. Come avete partito. Fatto a fare questo grave errore? Vabbè, succede, fuori dall'ironia. Penso che l'errore non sia nostro. Ok. Ecco, perché oltretutto non ci hanno chiesto neanche di pagare, guardi. Ci hanno fatto ripartire senza dover pagare nulla. Anche se fosse un centesimo, ce l'avevate. Vista la cifra esosa, ma scusi, esatto. Come si fa a sbagliare di un centesimo? Nel senso che voi avete compilato male, avete scritto un centesimo in meno. Io penso che queste siano cifre che arrivano già al commercialista. Non penso che dobbiamo farle noi e non le farà neanche il commercialista. Perciò, se l'errore c'è stato, non è un errore nostro. Ma anche se fosse, voglio dire, cioè, la storia paradossale è che per questa vicenda, cioè di un errore di un centesimo di euro, vi hanno bloccato l'attività per oltre un mese. Siamo stati un mesetto lì appesi a questo centesimo. Cioè, che cosa non potevate fare? Emettere fattura, sostanzialmente? Sostanzialmente non potevamo fare quei lavori dove ci richiedono il DURC. Il DURC. Che è il documento unico di regolarità contributiva. Perché eravate irregolari. Noi eravamo irregolari con l'INPS. Pensi che sullo stesso documento c'è anche l'INAI. E con l'INAI eravamo regolarissimi. Perciò, abbiamo un DURC che ci hanno mandato, prima di quello regolare, ci hanno mandato un DURC irregolare, dove c'è scritto che l'INPS richiede un centesimo e l'INAI invece per loro è tutto regolare. Dopodiché è arrivato il DURC normalissimo, quello che riceviamo ogni 4 mesi quando ne facciamo richiesta. Per un mese si è bloccato tutto. Ma quando voi avete telefonato dicendo abbiate pazienza, è un centesimo di errore sul DURC. Non si può telefonare. Non si può. Non è possibile telefonare e parlare con le persone. Lì si tratta solo di scrivere, fare delle mail, posta certificata e aspettare il ricevimento della risposta. Nel senso che bisogna entrare nel tunnel della burocrazia e parlare vis-à-vis con qualcuno è impossibile. Però guardi, a proposito di burocrazia e di INPS in questo caso, signor Monorchio, ci faccia salutare anche un'altra ospite che è Valentina Cervi, che è con noi. Sì, buongiorno, signora Valentina. Buongiorno. Allora, invece qui la situazione, se volete, è opposta, nel senso che la signora Valentina Cervi dall'INPS soldi li ha ricevuti anche, no? Sì, ho 5.000 euro in più, se le signore li vuole. adesso non era per 5.000 euro, cioè cosa vuol dire? Detta così sembra un sogno, tutti dicono, ma come, beata? Sì, allora, innanzitutto avevo visionato sul sito dell'INPS che ero in disoccupazione, mentre invece ho scoperto poi che non è una disoccupazione, ma è la mobilità. Questo l'ho scoperto ovviamente dopo che è uscito tutto l'annuncio e tutto quanto, quando ho letto la risposta sopra il giornale. Sì. Cioè, nel senso, la mobilità, lei ha ricevuto, ha iniziato a ricevere dall'INPS, da quando? Da giugno 2017, ogni mese io ho 846 euro in mobilità. Ma lei è in mobilità? No, assolutamente, io sono assolutamente a tempo indeterminato. Questa è la questione. Senti, come è potuto accadere tutto questo? Cioè, questo secondo me è accaduto per una mancanza di... i documenti sono stati fatti tutti, è stato inviato tutto, è stato fatto questo Unilav dove esonera il lavoratore, cioè io a comunicare tutto a tutti gli istituti, perché appunto gira questo documento che passa dall'INPS piuttosto che all'ispettorato del lavoro e tutto quanto, dove affermava che io ero assunta a tempo indeterminato. Evidentemente qualcosa non ha girato bene e io invece da giugno risulto in mobilità. E lei ha detto, ha comunicato dicendo non è vero e vorrei per questo restituire i soldi che mi avete dato. Sì, l'INPS mi ha detto ma no signora aspetti un attimo adesso quando noi andremo. Ma come signora aspetti un attimo? Sì, ma proprio detto in quel modo qui l'operatore al numero verde, perché prima ho chiamato il numero verde, chiamare, piuttosto che andare là a farmi 5 ore di fila, ho chiamato per, insomma, segnalare che io non sono assolutamente dentro alla mobilità, e mi è stato detto di aspettare tra qualche mese, circa, potrebbe essere anche un anno, che quando l'INPS andrà a controllo i soldi me li avrebbe richiesti indietro. Perché poi il discorso è questo. Sì. Certo, lei li deve tenere da parte, perché poi arriverà il momento in cui glieli richiederanno indietro. Pensi, perché... Non pensi che sia arrivato un governo a darle un bonus da 846 euro al mese? No, io lo so che poi lei se li spende questi a soldi. A meno che lei non abbia un tesoretto elettorale per cui porta molti consensi a qualcuno, allora in quel caso forse i soldi hanno ragione d'essere, altrimenti... Non ho niente. L'unica cosa è che sì, io ce li ho sul conto, ce li ho da parte e va bene. Il problema è che mi aumenterà il reddito, quindi avrò due CUD e mi verrà tolto magari gli 80 euro del bonus, e in più avendo una figlia a carico mi si abbasseranno sicuramente gli assegni familiari, quindi insomma, cioè, quindi paradossalmente questi sono soldi che lei vorrebbe restituire, non può, e però no. la faranno andare in altri parametri, per cui perderà dei contributi. Mi scusi, ma davanti a questa istanza che lei avrà portato anche all'INPS, immagino avrà detto io rischio, che cosa dicono? Niente, non gliene frega niente a nessuno, quindi addirittura dicono li tenga lì, che vedrai che poi dopo arriverà un controllo e gli al patronato ho chiamato, perché naturalmente quando avevo fatto la mia mobilità ai tempi avevo fatto tutta la documentazione tramite loro, ho segnalato anche a loro dicendo ma io ho un problema, nel senso che prendo dei soldi dall'INPS che non mi spettano, e mi ha detto ma signora, se vuole venire qua domani mattina in fila e fa un po' di fila, quando va a toccare a lei vediamo come non ha risolto la situazione. No, signor Saverio, queste sono due storie, come dire, di ordinaria follia, ordinaria burocrazia, non lo so, adesso è sempre Kafka che torna. A lei, Saverio, la situazione si è risolta, se non sbaglio? Sì, cioè, adesso la mia si è risolta, stiamo lavorando. Potete fatturare? Come prima possiamo fatturare, tutto risolto. Va bene, almeno questo sì. Sì, questo qua, almeno questo è andato a posto. Quindi ha impiegato un mese a risolversi la storia? Sì, dal 18 di ottobre al 16 di novembre. Se per un centesimo ci è voluto un mese, pensi fosse stato un euro che succedeva. Però la prende con questo spirito. Noi la ringraziamo perché la prende con questo spirito leggero. Invece, signora Valentina, la sua situazione non è ancora risolta. Attenda il controllo. No, la cosa che mi dà fastidio è che lei ci ha fatto capire che sforando questi parametri, perché percepisce un reddito anche se non dovuto, ma lei non lo vuole, perderà dei contributi, mi sembra di capire, ma anche che siano pochi, anche che siano quei 50-60 euro, ma ci mancherebbe, a me comunque fanno la differenza, però comunque non è un errore mio, quindi inutile che anche l'INPS scriva sopra il giornale che i documenti sono stati fatti. I documenti sono stati fatti tutti, ce li ho tutti qua davanti a me, sono stati fatti tutti, ma come sempre, perché io purtroppo ho avuto a che fare già insieme all'INPS, purtroppo c'è una disorganizzazione pavosa, a parte che telefoni a quel numero verde non sanno mai niente, è un numero nulla. Come diceva il signore di prima, che è inutile telefonare completamente. Nullo, è inutile, attesa per niente, è la disorganizzazione che comunque hanno. Io capisco che sono in difficoltà, magari visto il momento e tutto, ma dal momento che telefono e ti dico che ho 5.000 euro in più, ma cosa mi dici? Che vediamo tra un anno? Ma infatti di fronte al fatto che le vuole restituire. Signora Valentina, noi ci teniamo in contatto e ci faccio sapere se questa vicenda un po' kafkiana appunto va. Mi raccomando, non li spenda, perché esatto, questo no. No, ma veramente, poi dopo quando perderà quei 50-60 euro di contributi, non è che lo Stato va a ridarglieli, perché dovrà spiegare tutto. Che poi andranno a ritirare quelli che le hanno dato in più, ne siamo certi. Ma che poi le ridiano i bonus e tutto ciò che le è stato tolto, invece non ne siamo così così sicuri. Comunque, cara Veronica, qui c'è chi dice: ma come, una radio giovane parlate di Berlusconi? Un altro che ci scrive: è il vero funambolo dei funamboli, Berlusconi. Su guarda, questo io sono d'accordo. Gli ascoltatori, Jessica ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, volevo dire due cose su Berlusconi. A parte avevo una banalità che forse avranno detto anche altri, che dopo 30 anni dobbiamo sortirci ancora il signor Berlusconi. Seconda cosa, io credo che quando parli dei suoi amici liceali sia anche un po' offensivo, sinceramente, perché purtroppo ci sono persone che invecchiano dignitosamente e invece lui è un po' ridicolo, dato che sta invecchiando con i denti di porcellana, il viso di pasta frolla e riportino. Mi scusi se sono un po' offensiva, però se lo merita. Ah, ecco. Insomma, si è tolta questo sassolino nella scarpa. Stato molto offensivo ieri. No, è vero. Cioè, nei confronti dei compagni che non stanno bene come lui. Più che altro è stato anche poco strategico, perché in questa fase in cui sta puntando tutto invece sugli anziani, il Ministero della Terza Età, le alziamo le pensioni minime, ha capito che è un paese per vecchi. Sì. Poi questo qui è stato un autogol, perché io sono giovane. Fa le battute, ma ancora a pensare a Berlusconi, è da 30 anni che fa le battute, le barzellette, le corna, il cucù. Non siamo noi che ancora pensiamo a Berlusconi per scelta. Ale, mi dispiace dirtelo, ma non siamo stati noi. Cioè, non è che ieri da Fazio si è visto, io non l'ho visto, un Berlusconi diverso rispetto agli ultimi 30 anni. È sempre stato così Berlusconi, ha preso milioni di voti. Siamo assolutamente d'accordo, diverso non era, però siccome la strategia elettorale piano piano viene modellata a seconda di come cambiano i tempi, in questo momento siamo pro anziani tu cura, quindi questa battuta quindi era battuta un po' sugli anziani stridente. Non va bene, farà perdere 2,3 voti. Michele da Treviso, vedremo. Michele! Pronto? Michele, eccolo. Pronto, stavo bevendo dell'acqua, mentre mi strozzo. Prego, Michele. Che succede, Michele? Molto bene, buongiorno. Bene. Eccoci. Volevo dire, io faccio un lavoro bellissimo, lavoro in mezzo ai giocattoli, e quindi sentendo stamattina, leggendo i titoli dei giornali, avendo visto un po' il telegiornale anche ieri sera, ho paragonato poi coloro che vorrebbero governarci a dei personaggi praticamente. Pensavo volesse regalare un giocattolo alla Veronica Gentile. Volentieri un bel peluche. No, scherziamo, è un gioco. Io... questo sia chiaro, è un gioco, perché sennò poi dopo ci dicono mi immaginano tutti che nuoto nella montagna di regali che mi è stata purtroppo. Ma insomma, siamo vicini a Natale, magari voi fate i buoni, può darsi che qualcosa vi vedi che saggezza, Michele, bravo. Forza. Io sono un angelo, sono. Ma perché pensava giocattoli e ai politicanti? No, pensavo ai giocattoli perché, come dicevo alla vostra, diciamo, i segretari. Sì, la centralinistra, la nostra rosa. Di essere governato più dalla Disney Pixar che da dei partiti, no? Perché appunto Berlusconi mi ricorda un po' la notte dei morti viventi, cioè un qualcosa che ritorna costantemente, che è un incubo. E per togliere ogni dubbio, io sono stato uno dei fondatori di Forza Italia, dove abito, quindi non ho niente contro Berlusconi del 94, ce l'ho contro adesso, perché come diceva Veronica, è giusto che uno incominci a fare il nonno e prenda anche coscienza dell'età che ha. Quindi certo, non vedo futuro con uno che ha 82 anni, con tutto il rispetto, mio padre ne ha 82, è un signore anziano molto in gamba, però francamente... Quindi non lo voterà. Poi, Michele, ma una cosa le voglio chiedere, come leader di Forza Italia, chi le piacerebbe, visto che lei era iscritto, è stato uno dei fondatori? E ieri Berlusconi, appunto, abbiamo detto... Lei mi ha fatto una bella domanda, perché capisce, il problema di Berlusconi è che lui non ha mai voluto avere un leader che lo sostituisce. Ma perché questo è lui, Forza Italia è lui. Di Berlusconi e di Forza Italia. Io auguro a Berlusconi di vivere 1000 anni, ma quando mancherà Berlusconi, Forza Italia crollerà, glielo dice ma uno certo, che... Ma perché Forza Italia è Berlusconi, ma chi ha preso i voti in questi 30 anni? Sì, ho capito. Ma è una domanda semplice, chi li ha presi? Berlusconi? Ma in dubbio che tutti quelli che hanno avuto successo in politica in Forza Italia l'hanno avuto all'ombra di Berlusconi. Questo è inutile. Quindi chi denigra Berlusconi con tutti i vantaggi che hanno avuto sono, diciamo, non sono coerenti e non sono nemmeno... Ma Disney Pixar è finita così? Cioè mi scusi, poi c'è Gigino Di Maio, che sarebbe per conto mio Sammy il pompiere. Sì. e poi c'è Renzi, che sarebbe PJ Max. Chi è? PJ Max. Lei non ha bambini piccoli, ho già capito. Io ne ho due, però mi manca. Lo spieghi a me. Sono quei personaggetti praticamente che saltano da una realtà all'altra. Quindi voglio dire, noi mi farà un mazzo così, Mattia, stasera. Non sì, sapevi, se non sapevi di... l'ho chiesa, se no venga a trovarmi il negozio, che così glielo Vado a Treviso. Questa volta potrei abbonare il mio regalo per Averò che te serve per Alessandro e per i figli di Alessandro. Potrei fare questo regalo, Michele. Che dice? Dai. Mi aspetto volentieri. Volevo concludere dicendo che è veramente triste vedere che rischiamo di essere non governati da delle persone che non sanno qual è la vera realtà. Perfetto, questo l'ha detto Michele, la ringraziamo. Andiamo un attimo in pubblicità e poi rientriamo con gli ascoltatori, altri temi funambolici. State con noi. I funamboli. Avevo dei dubbi se votare o meno i 5 Stelle, ma con le parole di Berlusconi mi ha tolto ogni dubbio. Veronica sarebbe perfetta per il Fatto Quotidiano. E dov'è quella star mediatica di Boeri? Quando succedono queste cose viene sempre a farci le lezioni, ma queste cose qua, un po' di burocrazia in meno, un po' di cose più snelle per venire incontro alle persone, no, No, ma non ci siamo capiti, Veronica scrive sul Fatto Quotidiano, quindi il nostro ascoltatore... Tanto c'è una logica. A tutto c'è una... il cerchio si chiude, capito? Abbiamo pescata là. Siete andati, capito? Fishing in fatto. Con una triglia. Purtroppo avete beccato la prima triglia che c'era. Allora. Dai, c'è Mauro da Como. Buongiorno, Mauro. Buongiorno a voi, grazie per l'intervento. Io volevo dirvi che ho scoperto perché Berlusconi teme più i 5 Stelle dei comunisti. Ah. Perché? Perché i comunisti, come diceva lui, mangiavano e mangiano i bambini. Invece lo slogan nuovo dei 5 Stelle è uomo vecchio fa buon brodo. e poi sono stato anche al congresso 5 Stelle di Rimini e anche la Brambilla aveva mandato una spia in incognita e il menù prevedeva gatto instalmi, carne di cane allo spiedo e frittura mista di pesci rossi. Devo dire che tutti la prendono seriamente questa fase della politica, come sì. Mauro da Como, la ringraziamo, insomma, no, perché... Vabbè, se non altro il menù l'abbiamo chiarito, sì, in realtà no? è una cosa molto seria, ma con questa campagna elettorale, l'onda lunga, cosa, pensa a mesi così. Cosa è una cosa molto seria, Alessandro? Cosa è una cosa molto seria? Sì, però abbiamo anche visto la giornata di ieri. Per esempio, tu preferisci i bonus di cui ha parlato Renzi ieri o preferisci essere esentato dalle tasse di cui ha parlato Berlusconi? In più tu che dipende, ti avvii verso guarda, la vecchiaia, la risposta è molto semplice per gli italiani, quello che fanno pagare meno, adesso non è che si può fare i calcoli se 80 euro gli sgravi, quello che alla fine del mese ti fa pagare meno è quello preferito dagli italiani. Beh, allora secondo me ti conviene Berlusconi, facendoti un calcolo tutto sommato forse ti leva anche levo anche il bollo alla prima auto, ti levo questo, poi i conti dello Stato bisognava abbattessero il debito pubblico e magari come sei fiscale guardi il capello adesso il debito pubblico, i soldi e che vuoi che sia. Va bene, dai, allora vogliamo invitare abbiamo invitato una persona che è un illustratore street artist, lo dobbiamo chiamare col suo nome di battaglia, Urca con la K, Urca. Pronto, buongiorno. Fa un po' specie a tutti. Dire Urca. Questo so, possiamo, bello, ti piace dire, possiamo dire un nome di battesimo almeno Urca? Sì, ho un nome di battesimo, mi chiamo Davide. Davide. Ecco. Allora, a Spinetoli, o meglio a Pagliare del Tronto, dove c'è un sindaco del PD che ha manifestato contro gli immigrati a fianco anche di partiti, credo come Forza Nuova, sono apparsi dei cartelli, un cartello tipo Sagra, sapete quei cartelli delle sagre, no? E il cartello era molto, molto duro, attenzione, battuta di caccia al negro, era una forte provocazione che in realtà hai fatto tu. Sì. Perché? Perché in primo luogo volevo manifestare il mio dissenso proprio a proposito del corteo che c'è stato la settimana scorsa, durante il quale è stato tappezzato Spinetoli di striscioni con dei messaggi che io ritengo insomma poco condivisibili, se non xenofobi. Ma ci fai degli esempi, Davide? Perché leggevo appunto questo che tu dici: io ho reso palese, ho portato alle estreme conseguenze quello che in realtà già dicevano quei cartelloni, solo in maniera più ipocrita, più velata. Sì, sì, è questo che credo che sia, perché per esempio uno di questi cartelloni cavalcavano il tema della sicurezza, giustificato dal fatto che la casa identificata per ospitare queste 37 persone si trova nelle vicinanze di una scuola, per cui io trovo che la correlazione immediata che si fa tra l'arrivo di 37 persone di colore vicino a una scuola e l'abbassamento del tasso di sicurezza di una comunità mi sembra, non so, però hai fatto questa, un sillogismo forzato. La provocazione che hai fatto è molto forte, tanto che sono stati rimossi questi cartelloni, perché c'è proprio caccia al negro, c'è il bianco. No, sì, giusto per descrivere, sì, il bianco, certo, è anche un disegno di bella fattura dal punto di vista del disegno, però è molto, grazie, l'immagine è molto violenta, nel senso qualcuno l'ha scambiata per una cosa vera. Infatti leggo addirittura che il comitato si è dissociato all'inizio temendo che fossero, cioè che pensassero dipendesse da loro, venisse da loro. È chiaro, è chiaro, io ho giocato sugli stereotipi e ho forzato i concetti proprio perché volevo comunque provocare una reazione anche nella comunità e cercare di svegliare delle coscienze a proposito di una cosa che io ritengo che sia abbastanza grave, insomma, un corteo anti-immigrati con questi slogan che, ripeto, trovo forzati e voglio dire... No, ma questo l'hai detto. La cosa interessante è che la provocazione artistica è questa: di fronte a proteste contro i migranti, tu hai fatto un cartello appunto in cui un comitato fantomatico cittadino organizzava la battuta di caccia al negro per esasperare, insomma, dire arriveremo a questo. Questo è il concetto che volevi esprimere. Sì, io no, in realtà appunto volevo sì estremizzare il concetto proprio perché trovo che sia, poi voglio dire, voglio precisare appunto, il comitato cittadino esiste davvero ed è quello che ha promosso, che ha promosso la manifestazione, esattamente, certo, esattamente. Ripeto, trovando questi cartelli, questa manifestazione sbagliata, questo ci hai detto, insomma, motivata, sì, ma motivata soltanto da, appunto, dal fatto che arrivino queste 37 persone di colore che arriveranno poi alla fine o dopo la manifestazione non verranno più. Io adesso questo non, adesso questo non posso dire, non so quali saranno gli sviluppi. Ti sei occupato della provocazione artistica, diciamo. Sì, io ho voluto fare questa provocazione artistica perché non sono d'accordo e anche perché al di là del fatto che mi sembra, non pensavo di creare tutta questa reazione. Insomma, un manifesto da oggi la caccia al negro, è chiaro che uno che lo nota dice: oh, ma forse che è sta l'aspetto cosa? Più inquietante è che ci abbiano creduto, nel senso che ormai è talmente il livello di appunto estremo a cui siamo arrivati che un cartellone così che sembra i livelli del Ku Klux Klan viene preso sul serio e si pensa che qualcuno l'abbia appeso, al punto che il comitato dice: no, beh, noi dobbiamo dissociarci. Esattamente. Poi sentivo prima che parlavate di fake news, esatto, e anche a proposito dell'analfabetismo dilagante, esatto, perché comunque io nel pubblicare la foto sulla mia pagina ho spiegato che era una provocazione. Vabbè, diciamo che magari però, appeso vicino ai cartelli della città, qualcuno l'ha preso per un qualcosa, se non altro qualcosa che stona, ecco, cioè che non deve essere appeso lì. Comunque ti ringraziamo, Davide, anzi Urca, per essere stato con noi questa provocazione. Tanto. Urca con la K. Che ti piace? Ma chiamalo oggi pomeriggio dopo, gli dici un po' lo chiamo chiami solo per nome, fai finta non senti, urca tutto il tempo. Esatto. Allora, dai, dobbiamo andare al traffico. C'è il nostro Leonardo Manera, funambolo, che è qui con noi. È venuto oggi? Che ha fatto nel weekend? Qualche danno? Sta in grande buongiorno. Mi è venuta in mente una cosa a proposito rapidamente di provocazioni. Dopo le Torri Gemelle 2001, Catalana a Londra, sì, fece una serie di manifesti scritti in arabo. Tutti si preoccupavano perché ci sono gli arabi che vogliono far saltare tutto. Invece scritto in arabo era la lettera d'amore di un giovane arabo che scriveva alla fidanzata. E anche questa è una specie di provocazione, cioè, come certo, dire, non tutti. Lasciamo notorio, stare che poi lui si è fatto saltare in aria quando la fidanzata l'ha lasciato. Comunque era una, era una lettera quello d'amore. Quello però è successo per conto suo, insomma, non era. Dai, allora. Non l'ha fatto in un luogo pubblico. Il traffico. I funamboli. Berlusconi, la única cosa buena que ha fatto durante su mandato es el bunga bunga y poi reportar al Milan Ronaldinho. Basta così. Gracias. Per la verità, insomma, potevi citare Kakà, Shevchenko, Seedorf, Ancelotti, Ronaldinho, Van Basten, ecco, ma Ronaldinho, sinceramente. Avete visto la notizia che Ronaldinho sembra che stia per mettersi in politica. Sì, in politica? No, ma non è quello che hanno arrestato? No, quello era quello Robinho. Robinho. Ah, sì, finiscono tutti in igno, ma sai, non già, l'hanno arrestato. Già però. Mi sono ricordata, Ro e igno. Non l'hanno arrestato, è in Brasile, e comunque, sai, molti brasiliani finiscono in igno. I brasiliani tutti finiscono in igno, anche se sono grossi e giganteschi. È stato Robinho condannato per stupro, ma sta in Brasile. Vabbè, niente, quindi? Si butta sul calcio. E quindi sta in Brasile, se non può venire in Italia. Certo. Invece Ronaldinho è candidato in politica. Esatto. E guarda, ma il Milan ha fatto grandi. Calazze, tu conosci Calazze? Caca Calazze. È il sindaco di Tbilisi. E Weah sta per diventare presidente della Liberia. Ragazzi, signori, il Milan, ma dove stiamo andando? È l'esempio di Berlusconi, che ha dato l'esempio a tutti i suoi calciatori. Vabbè. Perché poi i brasiliani... Fantastico, quindi dal calcio passano in politica. Certo. Ma io non ho capito, poi dicevo prima, perché i brasiliani finiscono tutti in igno anche se sono grossi. Non c'è mai un robogne. Come si suol dire, non è vero che l'ha detta, dai. Andiamo. Facciamo finta di niente. Deve essere una cosa calcistica anche questa che non ho capito. Allora, però ieri, Veronica e... Sandro, ieri con mio figlio Beniamino, che ha 8 anni... sono andato a trovare i miei genitori che abitano a Salò sul lago di Garda e ormai hanno 85 anni, i miei genitori sono un po' affaticati fisicamente, però sono ancora autonomi, cercano un po' di aiutarsi reciprocamente. A un certo punto, non so neanche come mai, si è cominciato a parlare della Seconda Guerra Mondiale, come ieri Berlusconi da Fazio. Salò faceva parte della Repubblica Sociale di Mussolini, anzi si chiamava proprio Repubblica Sociale di Salò. È stato difficile spiegare a mio figlio come mai l'Italia fosse divisa in due, da una parte con i tedeschi, dall'altra con gli americani. E mio figlio che chiedeva, erano più bravi i tedeschi o gli americani, come se fosse una partita di calcio. E mio padre ha cominciato a raccontare dei fascisti che erano a Salò, degli aerei che sentiva passare, oppure di quando una volta è saltata una polveriera e l'esplosione ha fatto saltare tutti i vetri del paese, oppure del cibo che mancava e di come mio padre facesse chilometri in bicicletta per riuscire a trovare un po' di farina, oppure ancora di come dopo la guerra, poco alla volta, si fosse ricominciato a trovare un equilibrio, una pace sociale. E poi di mio zio Vasco, che dopo la guerra non si era mai sposato e che viveva con mia nonna Rosa, che cucinava per lui e gli preparava sempre uova fritte nel burro e cotolette fritte nel burro. Perciò secondo me il sangue di mio zio era del gruppo B, gruppo burro. Intanto mio figlio ascoltava e faceva domande. In quel momento non gli mancava la PlayStation o i cartoni animati. Stava lì e ascoltava una storia che però sentiva che era vera. C'era un passato dietro a quelle parole e a me faceva anche un po' di tenerezza vederli parlare insieme. Credo che negli ultimi anni ci siamo un po' persi tutto questo. La nostra identità passa anche attraverso queste parti di storie, non solo attraverso il Black Friday. Siamo tutti digitali, ma in questo nostro essere digitali non abbiamo veramente un'identità comune. E per ritrovare un'identità e una storia utilizziamo anche come immagini cose che non ci sono più. Il telefono, per esempio, viene sempre identificato con l'icona del vecchio telefono, con la cornetta, che non si usa più, e non con il molto più tecnologico iPhone. E non è nostalgia, è una necessità di rifarsi a qualcosa di concreto, di identificabile. In qualche modo sono immagini che creano un conforto di riconoscimento. Forse la crisi della politica sta anche qui, in personaggi che rappresentano se stessi, ma non rappresentano più un'identità, una storia comune italiana. E allora per cercare di avere qualche voto bisogna far leva sugli 80 euro di bonus oppure dall'altra parte sui populismi più facili che finiscono per essere la negazione dell'identità comune e invece sono il trionfo degli individualismi. Non c'è più il PC, non c'è più la DC, ma non sono ancora stati sostituiti da niente, da nient'altro in fondo. L'Italia invece c'è ancora, smarrita, alla ricerca di una nuova identità. Intanto però non si trova nessuna icona vintage che possa identificarla in modo credibile. E allora? E infatti secondo me la forza di Berlusconi sta proprio qui in quelli che lo votano. Che per loro rappresenta un'identità vintage. Vintage. Allora, ma siamo qui. Ieri comunque una cosa sola, Berlusconi mi ha fatto l'effetto, mentre parlava con Fazio, sì, gli raccontava e lui lo ascoltava in silenzio, di quando nonno Manera racconta a noi prima di chiudere la puntata e inizia con l'aneddoto. Ti ricordi quella volta vicino al caminetto? Sì, ma devi capire, e poi nonno, Veronica, Berlusconi non parla a te. Tanto tu non l'hai mai votato e mai lo voterai. Ogni volta mi devi offendere. Perché non parla a te, solo che parla ai milioni di persone che invece lo votano. Lo so, ti parla incredibile. E poi stiamo a parlarne anche qui noi adesso, quindi vuol dire che una sua forza mediatica ce l'ha sempre. Vabbè, esatto. Ma il fatto che ne parliamo noi, che siamo capaci di metterci a parlare di qualunque cosa, non è sintomatico. Certo, no, Berlusconi, sono passati tutti, Prodi, D'Alema, Bersani, Fassino, Rutelli, Veltroni, senti, e Berlusconi è sempre qua. C'è Vincenzo da Como. Infatti. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a lei. Eccoci. Sono d'accordo con lei, l'unico superstite è il dinosauro Berlusconi. Ecco, allora no, io ho chiamato invece per la questione delle fake news. Sì. Sì. Allora, io sono d'accordo con Milan, il problema non è la fake news, ma è chi poi con la fake news se ne fa convinzione e va a votare con la convinzione della fake news. Allora, non bisognerebbe fare una legge sulle fake news, ma una legge per impedire a queste persone poi di andare a votare praticamente. Addirittura. Un patentino dell'elettore sarebbe Il patentino dell'elettore. Torniamo al voto per censo, come nella allora il corte problema del infatti Re Sole. Non sono neanche i politici, ma chi li vota? Ma certo, ma che sì, il popolo perché allora sia... è inutile che ci lamentiamo dei politici, di questo, quest'altro, che sono la casta, bugiardi, l'angolo del populista. No, se l'angolo popolo, del populista decade nel momento in cui si pensa che il popolo crede alle bufale, crede alla Boschi, al funerale di Rina. Non è molto informato il popolo. Finisce la prima ora dei funamboli, tra poco la seconda ora, state con noi. I funamboli. Signora Veronica, Robinho è in Brasile assieme a Battisti e finché non arriva Battisti non ci danno neanche Robinho. Vieni a Torino in barriera di Milano a vedere che cosa fanno gli immigrati. Urca, tutti questi extracomunitari portateli a casa tua. Eccoci qui. Hai visto Alessandra come immediatamente hanno identificato Veronica come una sodale di Battisti? Sì, assolutamente. Subito, è stato un attimo. Con la differenza che se ci ridanno Battisti io sfilo nudo per le città di Milano, se ci ridanno Robinho no. Ce l'avevi già detto, ma con queste nudità si allontanano, perché anche il nostro Lorenzo Nespoli aveva detto che se il Milan avesse vinto lo scudetto si sarebbe spogliato nudo. No, l'Europa League e lì vinceremo a mani basse. Pardon, era l'Europa League. A mani basse. Pure, hai capito, c'è è l'ultima illusione rimasta questa. Anche l'Europa League mi devo c'è ricordare c'è la Coppa Italia anche, ci si può illudere anche con la Coppa Italia se per questo. Ma questo allenatore è bravo, insomma, vi piace a voi? Montella secondo me è come uno che di colpo si trova ad avere troppi soldi e non sa cosa farne. Lui si è trovato con troppi giocatori e non sa come gestirli. Guarda, io penso di Montella che è il momento della funambola del giorno, signori. Non è compaesano mio, Montella. No, è di Napoli, Montella. Ah, ok. Non giocava con la Roma? Ha giocato con la Roma, certo. Ah. Ha giocato anche con la Fiorentina, credo. Ha giocato Sampdoria. Beh, sono la Sampdoria. Già che io sappia che ha giocato con la Roma, mi sembra, no? Moltissimo. Ma è che poi tu dovresti vedere quelli che giocano nella Lazio, se è per questo. Adesso, nomi che riverberano Lazio qualcuno. Che ieri ha... Ha pareggiato, lo so. Ti hanno suggerito clamorosamente. No, perché la domanda era quanto era irritato papà. E gli ho scritto insoddisfatto moltissimo. Hai avuto la classica esitazione da suggerimento. Sì, ma certo. Guarda, ve lo giuro, vi faccio parlare con Chiappini in regia che vi dice che non mi ha suggerito. Secondo lo me, sapevo. Guarda, la funambola del giorno che adesso presentiamo potrà anche capire dal tuo silenzio se tu se ti hanno suggerito e quindi hai copiato. Dovresti essere bocciata. Mi becca subito? Sì, sì, sì. Nome: Anna Maria. Cognome: Berenzi. Età: 52 anni. Appena nominata cavaliere all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, insegna matematica in ospedale a ragazzi costretti a medie e lunghe degenze. Eccoci qui con Anna Maria Berenzi, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Ha vinto buongiorno anche un riconoscimento importante come migliore insegnante del 2017. Poi stabilire chi sia la migliore insegnante, non è facilissimo, ecco. Però fa un lavoro assolutamente da sottolineare. È vero? Prof, ma che fa di miracoloso per essere la migliore insegnante d'Italia? In matematica, poi. Ecco, allora, già è un ossimoro. Dall'idea della migliore insegnante, dai, vediamo. Secondo me il ministero ha voluto così dare un esempio e far così mostrare un modo di insegnamento che ha voluto premiare, ed è quello del prendersi cura di un ragazzo a 360 gradi e soprattutto impostare una didattica basandosi sulla relazione. E in ospedale è così per forza, nel senso che se non fai questo non c'è nessuna possibilità di aggancio del ragazzo e anche, a mio parere, non c'è nessuna efficacia del tuo intervento. Quindi dai, non sicuramente la migliore insegnante, però diciamo un insegnante che il ministero ha ritenuto di voler presentare come modello. Ma anche perché però lei fa un lavoro molto importante, nel senso che lei insegna negli ospedali, cioè va dove ci sono i ragazzi che per lungo degenze o medie degenze, insomma, sono costretti a stare lontano dai banchi e insegna loro che è fondamentale per non far perdere mesi, settimane di... Ma quindi i ragazzi delle scuole medie, diciamo, come età? Dunque, in esso sono delle scuole superiori, della secondaria di secondo grado, poi però ci sono colleghi delle medie, colleghi per la primaria, colleghi anche per l'infanzia. Anzi, diciamo che la secondaria di secondo grado è stata l'ultima ad arrivare, perché inizialmente negli ospedali si sono formate le sezioni ospedaliere fino all'ordine delle medie. Poi da una decina d'anni, un massimo 15 anni, hanno cominciato a così. Il ministero anche ha cominciato a promuovere queste sezioni per la secondaria di secondo grado, che ovviamente sono un mondo un po' diverso, perché cominciamo a differenziare i percorsi di studio, ci sono le materie specifiche di indirizzo e così via. Di fatto gli insegnanti di ruolo in ospedale per la secondaria di secondo grado sono insegnanti delle materie che trasversalmente hanno un po' in tutti gli indirizzi, quindi italiano, matematica, lingua, e ovviamente dopo avendo delle abilitazioni, per esempio io sono titolare per matematica ma ho l'abilitazione per fisica, insegno anche fisica, sì. La collega di inglese insegna anche tedesco, poi italiano e storia ovviamente, e così via. Per le materie invece, diciamo, di indirizzo, per le lungodegenze, ci organizziamo con dei docenti, una rete di istituti che collabora con noi e chiamiamo, a seconda del bisogno, i colleghi per le materie. Mi colpisce però questa cosa, ma come reagiscono i ragazzi in ospedale? Perché, voglio dire, uno già è in ospedale, quindi in una situazione di salute precaria. Certo. Glielo dico come provocazione, dice, ma mi tocca anche studiare. Sì, poi certo. Appunto una materia che è veramente faticosa, pesante, la più odiata da tutti gli studenti, la matematica e la fisica, che è peggio ancora, che io ho sempre odiato, materie che non si vorrebbero fare e vedere mai. Leonardo, calmati. Chiudiamo il trittico, così abbiamo fatto la domanda a tutti e tre, ma soprattutto la didattica è la stessa delle scuole oppure c'è una maggiore indulgenza, non si fanno le interrogazioni, come funziona? Certo, dunque è sicuramente una dimensione del tutto anomala, proprio particolarissima. Allora, partiamo dal discorso dell'approccio. Intanto dipende dal tipo di degenza, nel senso, se la degenza è media, ovviamente si può capire l'utilità, nel senso del non perdere tempo, del non rimanere indietro, in modo che poi al rientro sia tutto più facile. Sulle lungodegenze ovviamente invece il discorso è molto più profondo, nel senso, il primo approccio di fronte a una malattia importante che comporta una lunga degenza o comunque una lunga assenza da scuola, e lunga parliamo anche di mesi, anche un anno, a volte anche due anni, è un discorso ovviamente diverso, nel senso, anche i genitori spesso come primo approccio partono in termini protettivi, e certo, giustamente, pensando che le priorità sono altre, quindi prima la salute, prima portare a casa la pelle, ed è verissimo ovviamente, però è nulla, infatti fa pensare che il ritardo di un anno e mezzo su un corso di studi possa poi essere importante in una dimensione del genere. Poi però nel momento in cui gli si fa capire che invece fare scuola è proprio voler dire no, ok, c'è qualcosa che ci sta devastando la vita, c'è uno tsunami che sta ribaltando tutto, però qualcosa può continuare, e quel qualcosa è fondamentale farlo continuare, perché nel continuare quella progettualità, quel tenere una mente in funzione, tenersi in contatto con la propria classe in qualche modo, ovviamente in un modo diverso, poi arriviamo ovviamente a rispondere anche alla didattica, è molto importante, e i ragazzi restituisce stessi, anche un senso di normalità probabilmente, no? Certo. Assolutamente. Certamente, sì, infatti è stata proprio anche fortemente pensata in quei termini, e anche durante, proprio gli stessi ragazzi per quella lezione hanno la soddisfazione di sentirsi ancora capaci, ancora protagonisti, e anche solo proprio per quel valore di quella lezione, a mio parere, insomma, acquisiscono un ruolo forza, prezioso. Ma no, è chiaro, assolutamente. Sulla didattica allora ci dica, c'è... quindi. Certo, la didattica, guardi, è completamente differente, nel senso, le lezioni durano quello che lo studente riesce a durare, quindi dipende dalla concentrazione, dallo stato, dipende anche dal fatto delle visite che deve fare, delle terapie. No, per noi è normale, stiamo lavorando con un ragazzo, entra l'infermiera e ti hanno chiamato dalla radiologia, si interrompe. Ma e anche se il ragazzo è stanco. Tutto. Anche se il ragazzo è stanco, glielo dice, professoressa, io sono un po' stanco. Assolutamente, secondo me è fondamentale questo, cioè il ragazzo si deve sentire assolutamente libero di fare solo quando si sente. Certo. E ovviamente si gioca tutto dalla nostra parte, il fatto del rendere in qualche modo, non dico divertente ovviamente, però interessante, certo, coinvolgente quello che gli proponi, in modo che sia desideroso di partecipare, di essere coinvolto. Non, a mio parere proprio le forzature non hanno senso, non ripeto, no, perché altrimenti... Soprattutto in quella situazione, in ci un caso come questo, esatto. Dopo, ovviamente, anche noi abbiamo le nostre verifiche, abbiamo le nostre prove. Diciamo che è più facile perché qui è tutto un discorso formativo, è tutta una continua verifica formativa, nel senso che ogni lezione ci dà modo di vedere le difficoltà del ragazzo e intervenire su quelle che sono i potenziamenti da fare e così via. Quindi arriviamo al momento della verifica che normalmente non abbiamo difficoltà perché il ragazzo sappiamo. L'avete monitorato. Esatto. E ne ha visti guarire molti, spero. Certo. Certo, sicuramente tanti, sì, la maggior parte ovviamente, tantissimi, sì, che poi sono tornati alla loro vita normale, diciamo, l'aspetto più bello è proprio quello, il ritorno quando tornano per i controlli ogni tanto, ogni anno e così via, e vederli. Ah, ma certo, ma grazie anche al suo insegnamento. Va bene, per concludere, ci vuole dire se Veronica Gentili ha copiato, se le è stata suggerita la risposta? C'era da questa esitazione, sì. Le sembrava che... Ma secondo me era preparata, secondo me. Voleva fare così, preparata era un sul ruolo, calcio, professoressa, parte, preparata sul calcio. Veronica lo vede. Meno male che le professoresse, dai, ristabiliscono la verità. La ringraziamo molto, Anna Maria Berenzi. Grazie per essere stata con noi, che insegna agli ospedali civili di Brescia. La matematica, La fisica, soprattutto. Ma ricordo un'interrogazione. La racconto dopo. ma il mio mestiere. Niente, non gliela fa, non gliela fa, deve cantare. Dopo abbiamo, tra l'altro, tra New York e Mosca. Avremo tra poco un defurbizzato particolare. Un defurbizzato particolare. Poi abbiamo anche, dovete tirare fuori le palette da 0 a 10 perché abbiamo una sorpresa. Dejan Cernikovic ne ha beccato un altro di nostri politicanti che incredibilmente si fermano e cantano. Io non capirò mai questa cosa. Beh, si fermano, cantano in maniera orribile di solito, ma cantano il karaoke. Tutte le volte, perché pensano che fa simpa. Pensano di essere che è magnetico. Ma invece per la roba seria, a vero che te serve? Niente? Oggi abbiamo rimediato niente. Vediamo, magari. Si batte la fiacca? Magari adesso questo nostro ospite che è arrivato, magari è arrivato con qualcosa. Ah, da lui magari c'è qualcosa. Perché devi sapere che ha dei segreti, così, tra poco. Di scrocona, ce te serve, io fammi capisci. I funamboli. Veronica, vai a patinare la bambola, dai, non parlare più di calcio. Guardi Milan, io non sono contro il ritorno di Battisti in Italia perché è giusto che per quello che ha fatto vada in carcere. Certo che se lei si mette nudo preferisco rimanga in Brasile. Te l'avevo detto io. Sei un deterrente al ritorno di Battisti. No, non un deterrente. Ma l'abbiamo detto dal primo giorno e lui insiste. Allora, sono le 10:21 minuti. È venuto a trovarci in studio Stefano Chiodaroli. Buongiorno, eccoci qua. Ciao Alessandro, ciao Leo, buongiorno Veronica. Ciao Stefano. Allora, Stefano Chiodaroli, io lo conoscevo come comico. Ho imparato nel giro di due minuti che è un pittore. Vi giuro, è un pittore, tra l'altro un pittore di cose, soprattutto dipinti particolari. Particolarissimi, cioè abbastanza. Dipingo solo battaglie. Solo battaglie. Battaglie medievali, battaglie antiche, fitte di omini che si danno colpi di spada e di mazza. Ma che genere di quadri sono? Cioè, dovessi fare così un accostamento, un rimando, anche un po' mitomane, dici? Un genere unico, e questo è quello è che mi salva. No? È un Chiodaroli, io che li ho visti, secondo me sono come genere un po' fumettistico, ecco. Okay. Sì, è un po' un fumetto astratto, però io ho cercato una via naif, perché se mi fossi avviato per qualsiasi scuola sicuramente sarei stato trovato biasimevole, per cui è meglio trovare una strada naif. No, tra l'altro è stupendo perché ha detto che sua mamma era preoccupatissima di questa sua... Quando ero piccolo, mentre gli altri giocavano a pallone, io in disparte prendevo i fogli, gli A4, quelli per scrivere, e con la penna e con la matita disegnavo migliaia di omini che combattevano. Mia madre mi ha portato dallo psicologo, il quale le ha detto, vedrà che con l'adolescenza smette, ho 53 anni, non ho smesso. non ha smesso e fa di pin. Tra l'altro Stefano Chiodaroli, questo forse è un po' l'incubo. Vorrei chiederlo sia a te ma anche a Leonardo Manera, perché tu dici Stefano Chiodaroli, magari uno non, se dici il panettiere di Zelig tutti ricordano, oppure Colorado, Belli dentro, no, il carcerato. E c'è un po' questa angoscia di essere ricordati sempre per i personaggi che si fa o che si fanno, oppure sì, no? Beh, è un'angoscia, ma è anche un'angoscia piena di riconoscenza, perché alla fine è stato quell'urlo che mi ha dato prestigio e denaro almeno per un po', e per cui poi la gente ha una percezione un po' grossolana talvolta di quello che fai e ti ricordano per il verso più grosso che hai fatto, tutto qua. O per il tormentone o per l'abbigliamento, insomma. Ma i tuoi quadri si vendono? I miei quadri si vendono, sì, sono... Oppure si regalano, Veronica, oppure si regalano. Questo è un altro capitolo, Veronica. Che poi posso affrontare, ecco, con Stefano. O si barattano, però... O se me ne commissioni uno, almeno il primo te lo posso regalare, ecco. Una bella battaglia tra vichinghi, guarda, subito come gli è venuto lo spirito da guerra, vuoi giocare con i soldati, battaglie, quindi bello, sì, mi piacerebbe molto. Ma volevo sapere seriamente, oltre a regalarlo a me, se li vendi? Sì, li vendo. Esponi, hai un mercante? Li espongo, un mercante che si occupa della vendita. Io ho passato questa cosa della vendita dei miei quadri a una terza persona, perché sennò io so già che con il mio grande cuore di pane che mi ritrovo se me lo chiedono, me lo regali, me lo presti, me lo baratti, tipo me... meno tipo Veronica, guarda che Veronica non si fa problemi, cioè, è qua apposta, cioè. Ma lì con me si vince facile. Giustamente hai messo un mercante, un artista non si sporca le mani col denaro, no? No, il denaro e il potere sono troppo in basso perché io mi abbassi a raccoglierli. Cosacce che non vanno d'accordo. Stefano è un vero funambolo in qualche modo, perché io l'ho conosciuto tanti anni fa che faceva un lavoro completamente diverso, no? Se non sbaglio nel settore alimentare, sì, più o meno. Sì, ho fatto un po' tutti i lavori. Poi l'ho ritrovato anni dopo che faceva il comico e adesso me lo ritrovo che fa anche il pittore, quindi trova sempre strade nuove. Sono in venuto modo. A contenderti però il pubblico, perché anche tu so che dipingi. Leonardo dipinge, lo sai, vero Veronica, che no. Leonardo dipinge. E non te l'ho detto perché non volevo regalarti un quadro, non volevo, volevo questa maniera. Ma in questo caso firmi un Bonetti, un signor Bonetti, firmi. Beh. Oppure sempre oppure, Manera, sempre Manera. Ho comprato un Manera. Ho comprato un Manera. Comunque avete due cognomi funzionali, eh? Ho un Chiodaroli in soggiorno e tengo un Manera nello scantinato, no, nella camera da letto. Guarda. Ho un Chiodaroli sul camino. Stefano, tu che hai fatto tante serate come me, qual è l'episodio della gavetta che ti ricordi come più curioso? Più? Ah, quello più curioso è stato uno spettacolo che ho fatto a Grado. Era uno spettacolo all'interno di una rassegna del canto tradizionale friulano un po' di anni fa, ed erano questi slot di una trentina di canzoni tutte legate alla tradizione friulana. Cantavano canzoni legate a minatori che morti durante il lavoro, migranti che non tornavano più, alpini partiti per la guerra, e tutte le canzoni più o meno avevano questo tipo di tono. E mio marito è morto e non ritorna più, piango la giovinezza, piango il tempo che fu. Io in questa mestizia preparavo i miei pezzi comici per farli ridere. Diciamo che la brutalità e i modi diretti che avevo allora, e anche una certa imprudenza, non è che hanno vinto in questo contesto. Tant'è che dopo il primo intervento, che è stato accolto con una certa freddezza, al secondo intervento, dove io proponevo un personaggio che chiamavo Ornello l'ex fotomodello, che era uno che praticamente si spogliava, restava in tanga con musica di Jimmy Somerville, pop inglese. Questo succedeva davvero? Questo succedeva davvero. Sì, posso confermare. queste signore, queste buone signore, si sono messe a gridare: basta, vai via, sei schifoso, schifoso. Perché io ho capito che non ero l'uomo giusto nel posto giusto. Non era il contesto. E ho parlato col promoter e gli ho detto: ma senti, ma secondo me chiudiamola qui, io ti faccio anche uno sconto, non è giusto infliggere imporre Ornello il fotomodello alle signore. E questo mi dice: no vai, perché stai andando benissimo. Benissimo. Un gran classico. E anche l'episodio con i bambini in Sicilia, no, se non sbaglio. Ah sì, quello con i bambini in Sicilia restò mitico, perché eravamo andati in Sicilia a fare uno spettacolo e io ero, tra l'altro, ci eravamo esibiti con una certa fatica perché eravamo andati a Bronte e l'inizio era stato già strano, perché per far piacere non si sa bene a chi, invece che mettere il palco sulla piazza, era stato messo su una curva a gomito. Abbiamo iniziato a fare il sound check e sono arrivate due figure e ci hanno detto: no, che rumore fate? Beh, guardi, vogliamo fare il sound check. No, nessun sound check, perché adesso c'è la processione, per cui non potete disturbare la processione fino alle 9:30, per cui abbiamo iniziato lo spettacolo senza aver fatto un vero sound check. Ho fatto il mio spettacolo e a un certo punto, con una certa difficoltà, c'erano tutti questi bambini che correvano a destra, a sinistra, e diciamo il vociare era di gran lunga superiore all'emissione del suono, al che io mi sono permesso di dire a un bambino: bambinetto, ti voglio dire un segreto. Ai tempi ero più imprudente, adesso sono un signore garbato. Dico: bambinetto, ti dico un segreto, mi hai rotto le palle, prendi la rincorsa e picchia la testa contro il muro. Non l'avessi mai detto. Sei riuscito a uscire da quella piazza. Senti, guarda, non era politica corretta questa cosa. Assolutamente no, ma io non lo sono purtroppo. Ci sono dei nostri ascoltatori, poi Stefano ci racconterà dopo la borsa, perché lui è il protagonista della rubrica De Furbizziamoci di oggi. Però prima sentiamo Fausto da Brescia che ci vuole dire. Fausto, buongiorno. Buongiorno. Volevo dirvi che sentendo i vari protagonisti, diciamo così, delle elezioni imminenti, sento sempre parlare di regali a destra e a sinistra. Uno offre 80 euro, quell'altro vuole togliere la tassa sull'automobile, la prima. Per cui, di nuovo, stiamo scoprendo che siamo in balia degli irresponsabili, perché il debito pubblico, che fa schifo, rimane lì intatto, anzi aumenta, e nessuno dice niente. Mi copia, Fausto, l'ho detto, Veronica, sì, no, mi sbertuccia. No, voi siete bravissimi, perché siete molto... No, ma nel senso, Fausto, è la campagna elettorale che mondo è mondo, ma non solo in Italia, diciamo, in Italia, non solo in Italia, cioè, diciamo, ci sono le promesse da fattucchieri, forte, da venditori di pentole, no? Queste, no, cioè, più che altro, Fausto, preferisce i bonus di Renzi o la detassazione di Berlusconi? Niente, Nessuno dei due, sinceramente, nessuno dei due, perché noi siamo un paese paralizzato, non possiamo fare nessuna politica di incentivazione alle imprese, perché siamo sempre con il debito che ci opprime. Quindi, sinceramente, preferirei non dessero niente e facessero delle politiche di sostegno alle aziende, tutto lì. E di abbattimento del debito, e di abbattimento del debito pubblico, sennò se è come buttare acqua in un secchio bucato. Come Fausto, smetterebbero di farci queste proposte. Se buttiamo l'acqua nel secchio bucato, diciamo che l'acqua esce. Comunque è arrivata una foto nel frattempo, è Cornello, un ascoltatore. E Stefano si vede in tanga, e adesso te la mandiamo. Te la me mandiamo. La girate o devo googolare? Ho capito, la giriamo tra di noi, ma come facciamo a farla vedere? Digita, ecco, Cornello, ecco. Fotomodello. No, ecco come si fa a vedere agli ascoltatori. Cari ascoltatori, ecco, la sto mostrando, si vede in radio. Datemi la 2, datemi la 3, eccoci qua. Dammi la 4. Questa io Ornello. Non vedo niente, però. Ho capito, adesso siamo in radio, Veronica, era una battuta. Dai, andiamo alla borsa. No, ma la stai facendo vedere veramente? La gira borsa, di qua. La borsa. I funamboli. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong. Ciao Veronica, che dici di un bel piatto di couscous marocchino? Lasciami tu un indirizzo al centralino, ti lo porto io. Vabbè, abbiamo rimediato questo. Adesso oggi devo un attimo capire. No, il couscous, cioè, vado ottimo, matta sì, per il couscous. Sì, però poi figurati. Un po' freddo. Non sei capito se era di Bergamo lui o marocchino? Anche io ho avuto un attimo di dubbio. Secondo devo me dire. È un marocchino che sta a Bergamo. Bergamizzato. È un bergarocchino. È un bergarocchino, forse, non lo so. È un bergarocchino. Sì. Allora, siamo qui anche con Stefano Chiodaroli. Allora, c'è un ascoltatore. Sentiamo che ci vuol dire Cristiano da Parma. Cristiano, perché ci hai chiamato? Cosa vuoi dirci? Buongiorno. Ciao, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti voi. Vorrei stupirvi con un argomento assolutamente nuovo. Sì, vediamo. Berlusconi. Chi è Berlusconi? Non l'ho mai sentito. Parlaci, io non ce l'ho presente. È un calciatore? Già, angoscia, veramente, non lo devo dire assolutamente. Da stamattina lo devo dire. A parte, scusate, faccio un piccolo, apro una parentesi, Veronica Gentili è la cosa più bella che ti succede tutte le mattine. Va bene. Oh, ma grazie. Cerca una captatio benevolenza e così, va bene. No, Cristiano, io, amica, così almeno io sto bene per una settimana, Berlusconi. Grazie. Berlusconi, allora io credo che sia, a parte il problema che lui, vabbè, è un problema generale per se stesso, per tutti, ma io credo che il problema fondamentale sia che qualcuno, in generale l'informazione, ancora gli dia la carica. Cioè, quest'uomo, che poveraccio, lui, come dire, circola liberamente per l'Italia, liberamente, ancora per un po', liberamente, sì. Cioè, questo viene invitato alle trasmissioni, cioè, gli si dà anche conto. Ma adesso, cioè, ma stiamo parlando, ma io dico, ma una misura nelle cose, io non ho mai votato Berlusconi in vita mia, ma perché? Se Alessandro, prende milioni di voti, ma che cos'ha Berlusconi che non va? Alessandro, scusa, Alessandro, dovrebbero fare un fine vita tranquillo. Vabbè, dai, adesso no, ridiamo su questo. Vabbè, fine vita. Dica, spero che muoia. Dai, dica, spero che muoia. Ma dai, sì, un po' lo spera. Un po' lo spera. Ti ha detto che una persona d'età. Io sono un berlusconiano. Io ero un berlusconiano. Era berlusconiano. No, assolutamente. Io no. Io, per esempio, no. Ecco, io invece dico, andrebbe tranquillizzato, delle carezze, messo da telecamere finte, fargli fare una finta trasmissione dove lui pensa di parlare a migliore italiano. Il problema è quello, Alessandro. Ma il problema della democrazia non è banalmente che poi uno va a vedere, c'è la scheda Berlusconi, c'è Veltroni, c'è D'Alema, c'è Di Maio, c'è Renzi, c'è Speranza, e poi uno sceglie e casualmente milioni di italiani votano Berlusconi. Non capisco, Alessandro, perché ti scaldi tanto però su questa cosa. Allora, perché non ho capito cosa vuol dire andrebbe vietato. Sta dicendo semplicemente vietato. Che secondo lui proporsi come leader a 82 anni ha un sapore un po' così. Se avesse detto una frase del genere, eccetera, fargli delle finte trasmissioni in cui come un vecchio rincoglionito lo facciamo parlare così, è un'altra cosa. È così, vedi. Se ti sembra la stessa cosa che ha detto l'ascoltatore. Scusami. Tu che hai una certa, penso, cioè io mi spero, mi immagino che ti chiama Berlusconi stamattina, ti dice: che ne pensi Alessandro, domani mattina la facciamo una bella intervista. Sì, noi non ci occupiamo di politica, noi bravo, non ci occupiamo, però, c'è un'altra trasmissione, se facessi la trasmissione mattina, del mattino lo inviterei assolutamente, perché è un leader politico come gli altri. Sbaglieresti. Non è un leader politico, prima di essere un leader politico, è un pregiudicato, scusami, non vorrei dire una cosa, ma è un pregiudicato. Scusami, non è così. E tu daresti voce a svariati milioni di persone che ti seguono, a uno che, come dire, andrebbe, al mio punto di vista, dimenticato. Al tuo punto di vista, lo abbiamo accettato, il tuo punto di vista. Grazie per aver chiamato, Cristiano. Allora, è il momento dei deformizzati. È il momento che di... Che cosa ti è preso? Ma no, io, cioè, veramente, no, il tifo in politica non così in maniera... reazione... un po' too much, ti è preso un attimo. Sì, non accetto di stabilire che uno è bravo e uno è cretino, così a prescindere. Resta il fatto, secondo me, che lui rappresenta un tot di elettori ed è per quello fondamentalmente che viene intervistato dai mass media. Insomma. Ma infatti, cioè, considerazione poteva essere ieri che lui fosse da Fazio e che in qualche modo fosse definitivamente sdoganato da tutta quella sinistra che, perché è stata anti-berlusconiana per anni, da Scalfari in poi. Chi se ne frega ogni volta che uno dice una cosa che non sia, capito? A me non l'angolo interessa questo di Milan. Ma ti pare normale, cioè, secondo te, dire che Berlusconi non deve essere invitato dalle trasmissioni? Perché cioè, lui ha detto andrebbe fatto una trasmissione finta dire, in chiaramente, cui pensa di parlare non essendo il conduttore gente. Quindi non avendo il problema di dissociarsi da se stesso come dovrei fare io spesso, voleva dire, essendo comunque molto in là con gli anni e evidentemente non lo vede molto in forma, pensa allora? Che non dovrebbe, ecco, pensa che dal suo punto di vista è surreale che ancora sia lui il leader dello schieramento centrodestra, che verosimilmente potrebbe lo anche penso governare anch'io. Il paese. È surreale anche per me, ma così allora perché è t'arrabbi, e però. Così è, e quindi va intervistato come leader del centrodestra. Comunque adesso siamo andati oltre, perché c'è il deformizio. La sigla preferita, deformizziamoci. Questo era un colpo di mitragliata a prescindere, secondo me Peter l'aveva sparato per, no? Allora, Stefano Chiodaroli, furbacchione, furbacchione. Che cosa hai combinato nella vita? Beh, io c'è stato un periodo che facevo l'elenco delle cose di cui dovevo pentirmi, l'elenco degli errori, così una specie di esempio di coscienza. Poi ho smesso di farlo per non essere distrutto in me stesso. Poi, altra premessa, se anche considero le intenzioni del mio cuore, so di non essere un uomo buono. Detto questo, incautamente ho raccontato una piccola chiamiamolo raggiro, furtarello, furbata che ho fatto, l'ho raccontata a Leonardo, che ne ha fatto immediatamente tesoro e l'ha fatta diventare patrimonio di questa trasmissione. È chiaro. Allora, vengo al fatto, racconto anche il luogo e il posto, così da adesso in avanti i vigili della mia città mi guarderanno in cagnesco. con occhi sospetti. Semplicemente mi trovavo nel parcheggio, un parcheggio a pagamento di Vigevano, e mi sono accorto che ero senza spiccioli. Quindi avrei dovuto scendere dalla macchina, andare dal tabaccaio, dal panettiere, cambiare 5 euro, farmi dare degli spiccioli, quindi far partire il parchimetro. In realtà ho detto, senti, ma perché devo avventurarmi in questa lunga camminata? Saranno stati 50, 60, 70 metri. Io avevo un cartellino del giorno precedente che scadeva alle 12.58. Poi ho visto che lì per terra c'era un tagliandino del giorno in cui mi trovo nel parcheggio. Allora semplicemente ho raccolto un cartellino del giorno, di quel giorno, ho tolto la data del giorno, e poi io ho inumidito con la lingua la parte della data, l'ho attaccata sul cartellino del giorno precedente e risultava che il 18 novembre io avrei dovuto lasciare il parcheggio alle 12.26. Falso truffa. Non si vedeva che i due cartellini erano stati uniti, due biglietti, no? No, non si vedeva, perché io poi l'ho un po' anticato, ho sporcato un pochettino bacino con del tabacco che avevo, del sigaro. Poi ho preso un po' di sabbia, l'ho lanciata sul deflettore in modo tale che ci fosse un effetto velo. Diciamo che la però cosa... Però perdonami, questa è una truffa che può fare solo un artista. Cioè qui praticamente c'è stato un lavoro dietro. Un pittore, truffa gravata. Ma non serve la defurbizzazione, tanto nessuno è in grado di emularlo, quindi non abbiamo neanche il rischio. L'avessimo fatto noi avrebbero detto: che cos'è questa schifezza, signorina? Stefano Chiodaroli è nato a Varese il 15 dicembre 1964. No, ma non sappiamo se quella città corrisponde esattamente alla tua città. Ah no, ma io guarderò problemi a raccontarlo, perché tanto i miei concittadini mi conoscono per i modi diretti, di fare queste truffe. L'ho fatto a Vigevano. E l'ho fatto settimana scorsa in piazza Sant'Ambrogio. No, no, attenzione, la prima che dice che non è prescritto. Sì, è vero, di solito dico sempre tanti anni Stefano, fa. Stefano, che cosa ti portiamo in cella per Natale? Sì, esatto. Panettone, Pandoro? Mi piace molto, mi piace la sbrisolona. La sbrisolona. Io qui purtroppo non so bene dove reperire la sbrisolona. Ma comunque la si trova. E poi mi piacerebbe che... Sentivo prima che quella signora andava a fare lezioni di matematica. Una cosa che mi piacerebbe, se fossi all'ospedale o in carcere, che qualcuno mi venisse e mi leggesse dei romanzi o dei racconti, così. Vengo io. Va bene, grazie Veronica. Figurati, caro. Cioè, ad Alessandro piacerebbe qualcuno che va a parlare di Berlusconi e della sua età. Vorrei andare in carcere e dire: ma secondo voi Berlusconi, scusa, no, il bello è con te che sei chiuso dentro e non puoi scappare, per cui, ma vengo sempre io Alessandro, e lì pensa ai pipponi che t'attacco. E dice: ma io già sto in carcere, tu mi devi parlare di Berlusconi. Vabbè. Allora, io non voglio visite. Momento, non dovete farla entrare quella riccia, ve l'ho detto mille volte. Ciao Alessandro, sono venuta a trovarti anche oggi. Hai visto? Il traffico. Benvenuto nella tua auto. Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. I funamboli. Ragazzi, ma si sa che in politica, pur di essere eletti, si promette qualsiasi cosa. Persino sentito dire di un politico che, se sarà eletto, farà diventare Veronica Gentili la più esperta giornalista di calcio d'Italia. Vergogna! Calcio! Attenzione, fermi tutti! Sono le 10:50. Breaking news. No, secondo mani alzate, Sky, ferma. Colorito ferma. Pallido. Sky comunica in questo momento che il Milan avrebbe esonerato Montel, l'allenatore del Milan. Questo è il titolo che, ammazza, che c'è sotto io ho portato pancia. Una sfiga a Montel. Ma no, Milan esonerato Montel. Non ho fatto in tempo a aprire bocca. Questo almeno miseria. Cita Sky, le agenzie ancora, almeno su Ansa non c'è, ma insomma Sky ovviamente. Arriverà Gattuso insomma. Probabilmente. Gennarini, amici, chissà. Che questo vi sia da monito. Ho citato qua, Montella e guardate cosa attenzione, gli è successo. Ansa, Milan esonera Montella, la squadra Gattuso, che è l'allenatore della primavera in questo momento. E quindi la comunicazione ufficiale ormai è Montella è l'ex allenatore del Milan. Stefano, tu segui il calcio, no? Io sono un blando interista. Ah, vabbè, quindi sei blandamente contento. Blandamente, quest'anno lo vivo come una fatalità. Per noi interisti, lui vi odia, probabilmente ti ha dato del veleno mentre non te ne accorgevi, no, Stefano. No, lui vi detesta proprio personalmente tutti. No, ma assolutamente no. Io non sono tifoso in modo viscerale. Il terrore lo attanaglia. Pensa di non riuscire a uscire dalla porta a vetro. Allora, però è venuto a trovarci. In questo momento di difficoltà, il Montella deve fare cose che fa stare bene. professore, buongiorno. Che bello che è tornato, professore. Ma sono venuto perché questa notizia anche De Montella dice che adesso Montella non si deve chiudere dentro sua casa a rimuginare, che fa stare male questa cosa. E Montella deve andare a stadio a insultare Fasone, a insultare altri tifosi del Milan, a insultare i giocatori con astio, acredine, delusione, rancore. Questa cosa fa stare bene il Montella. Non lo farà, credo. Perché bisogna fare cose che fa stare bene, no? Io ho fondato questo metodo che è il metodo di stare bene, il nuovo metodo psicologico. Per esempio, oggi è lunedì. Psicologico. Se siete uomini, oggi per cominciare bene giornata, date un bacio a vostra moglie. Se siete moglie, date un bacio a vostri mariti, così poi siete a posto con coscienza. Quando in pausa tra pranzo vedete amante al motel, ma tenete la coscienza pulita, questa cosa fa stare bene. Poi quando uscite di casa, vi trovate in ascensore con un vicino di casa che non sopportate, invece di rimanere in silenzio a testa bassa, parlate con vostro vicino di casa e dite: maleducato, caprone, stupido, ignorante, mi fai schifo come persona. Ma non so se aiuta i rapporti di vicinato. Mi fai ribrezzo, ti odio, spero che ti capita qualche accidente. Ma io adesso provo oggi. È il modo migliore per stare bene è utilizzare il metodo di verità. E poi quando andate al bar, che c'è sempre coda lunedì mattina, che tutti vogliono caffè, dovete perdere tempo prezioso prima che arrivi. No, per guadagnare tempo, appena entrate in bar, gridate: vigili, stanno mettendo multa macchina qui fuori! Allora tutte si voltano per guardare voi, prendete il vostro posto e li bugerate. Ma dai, bugerare altre persone fa stare bene, queste sono cose che fa stare bene. E poi quando de sera torni a casa, che i tuoi figli vuole vedere cartoni animati, che è noiosa, insopportabile. Sì. Vedere Sean la pecora, tutte queste di animali, tu dai subito a tuo figlio un bicchierino di brandy piccolino. Non si fa. Figlio subito si addormenta e tu puoi guardare tutte le trasmissioni che vuoi, Grande Fratello, vi guardi e il seno di Cecilia Rodriguez, e questa cosa fa stare bene. Questa è cose che fa stare bene. In questo modo tu puoi cominciare giornata con energia migliore. Questo è il mio metodo psicologico, è metodo di stare bene. Io voglio seguire questo metodo psicologico. Allora, abbiamo 30 secondi la notizia che poi approfondiremo al giornale radio, appunto. Vincenzo Montella esonerato dal Milan, che passa a Gattuso, a Ringhio Gattuso, siamo messi bene. Allora, avete tu c'hai i voti da fare tutto il pomeriggio adesso? No, da 0 a 10, dai, le palette, Stefano Chiodaroli, sì, le palette, prego. Roberto Pinotti, poi trovate tutto su karaokereporter.it, beccato da Dejan Cednikovic, vai, Roberta Pinotti che canta Generale. Dentro la collina ci sta la notte, gruppe d'assassina e mezzo gran, c'è una contea. Vado via io, ciao. Me ne vado. Ciao. Stefano Chiodaroli, un voto io ministro della difesa. No, adesso lo dai il voto alla ministra della difesa, Stefano. Inutile che cerchi di andartene. Mi sto arrampicando su un frassino perché voglio strappare un ramo, lo appuntisco e me lo infilo nel petto. E ha detto nel petto, nel è stato petto. Gentile. Nel mio petto, petto. Io ho finalmente capito con questo a cosa servono gli F-35. Senti, partita un po' alta, dai. Vabbè, sfumiamo con la Pinotti. Un po' alta è partita. Un po' alta. Di 50. Da oggi dirò a tutti quei... Sei partito un po' alto. A domani.